stato l'11 settembre, l'11 marzo per Madrid, i kamikaze in Palestina, i kamikaze su Baghdad. Dall'alto ci hanno chiesto poi di odiare, ci hanno costretto a non cambiare canale. In ogni caso è faticoso ragionare, lasciamo andare il mondo nella follia totale, nella follia totale. Pioggia di bombe su Kabul, bombe rosse, bombe a stelle e strisce, fiumi di morte su Baghdad, fiumi di pace per l'Iraq. Qualcuno non si lascia ipnotizzare, ha capito che non tutto è bene o male, ha capito che qualcosa può cambiare, non è costretto a non cambiare canale, a non cambiare canale. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza per la guerra. Chiunque è un potenziale terrorista, quindi allontanati dai treni e gli aeroplani. Quando vedi un marocchino, un comunista, sparagli addosso, tanto sono tutti uguali. Sempre più spesso si apre il fuoco sulle manifestazioni. Si crede che sia giusto per combattere il terrore, si crede che sia giusto quel che ha detto Berlusconi, si crede che sia giusto per un mondo migliore. Per un mondo migliore. Per un mondo migliore. Per un mondo migliore. Per un mondo migliore. Per un mondo migliore. Mi raccomando, fai attenzione che chiunque è un potenziale terrorista. Se c'è una bomba sotto al culo, chiunque è un potenziale terrorista è un terrorista. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti in una strada troppo stretta ed è anche colpa della nostra indifferenza. Siamo finiti dentro il tunnel della guerra ed è anche colpa della nostra.